Cristiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi, devo dire, per la prima volta ormai dalla settimana scorsa, non tiene banco e non lo terrà neanche in questo programma il tema delle audizioni in commissione bicamerale sulle banche. Il gioco di parole era voluto. Oggi è stato sentito l'ex ministro Grilli, per carità, ma insomma si parla di cause un po' più nel merito e meno nella polemica e battaglia politica. Dopodiché ne abbiamo ampiamente parlato in tutte queste puntate. Io penso che chi vuole farsi un'idea se la sia fatta, su questo restiamo. Però avremo anche qualche aggiornamento sulla manovra. Faccio notare che a questo proposito domani con Il Sole 24 Ore esce uno speciale legge di bilancio, sono sei pagine con approfondimenti e analisi sulle novità per imprese, professionisti e cittadini, anche perché il provvedimento approvato ieri dalla Camera, adesso la fiducia posta al Senato, diventa appunto legge e, come sempre accade in questi casi, gli emendamenti creano tra virgolette un po' di confusione, perché uno non sa se poi sono passati o non sono passati, se è una proposta, e domani con Sole 24 Ore sei pagine dedicate proprio a questo. Di cosa parleremo invece oggi come cronaca della giornata economico-finanziaria? Beh, continua il nostro viaggio nell'Italia che vede la crescita dell'economia, ma la crescita anche del rancore, per citare il titolo del rapporto Censis di quest'anno, e quindi una crescita che comunque, pur essendo certificata, è diseguale, mal distribuita, e da lì appunto, come ricordavamo in molti altri appuntamenti e analisi, fa sì che ce ne sia parecchia o che sia buona per alcuni e che non la vedano altri. La dico male, ma è per farci capire, e questo crea poi inevitabilmente anche un aumento del rancore. Lo faremo nel giorno in cui l'Istat ci fa notare come da un lato i pensionati, però il dato è sul 2016, sono diminuiti, ma aumenta il reddito medio. L'assegno medio è di 17.580 euro lordi annui, più 260 euro rispetto al 2015. Il numero di pensionati è sceso di 115.000 unità tra il 2015 e il 2016, e quindi come differenza tra i nuovi 690.000 e quelli che hanno, chi ha smesso di percepire il trattamento 690.000 e i nuovi entrati nel trattamento pensionistico 575.000. L'Istat poi ci fa sapere che in Italia una famiglia su tre ancora non si connette a internet dalla propria abitazione. Comunque aumenta la quota, è ormai al 71% di quelle che si collegano a internet. E poi sul fronte contratti di lavoro, il dato questa volta dell'INPS, sono stati 1.330.000 i contratti stabili a tempo indeterminato, con un calo nei primi 10 mesi del 2,7% come contratti a tempo indeterminato rispetto allo stesso periodo del 2016. Il saldo positivo di tutti i contratti è di 730.000 contratti in più, come differenza tra nuove assunzioni 5.919.000 e cessazione di lavoro 5.919.000 e cessazione di lavoro 5.190.000. Parleremo dunque di questo. Poi, come sempre, per quello che riguarda la borsa, avremo l'approfondimento più 0,60% Milano in questo momento, assolutamente in linea con Parigi, più 0,65%, Francoforte più 0,40%, Londra più 1%, Dow Jones più 0,40%. L'euro non è a quota 1,19, ma si mantiene lì vicino, 1,18,70. Bene di nuovo oggi Saipem più 2,40, Buzzi Unicem più 1,60 come Intesa San Paolo, Tenaris più 1,40 come Telecom e Banco BPM, l'1,20 lo guadagna Moncler, l'1% Eni, Mediaset e Mediobanca. Il fronte opposto, Italgas meno 1,60, Banca Generali meno 1,30, Generali meno 0,70 e Campari meno 0,60%. Torneremo sul tema Amazon, perché l'abbiamo data anche ieri la notizia, ma insomma, dopo lo sciopero del 24 novembre, Il Black Friday è quello più ridotto, 2 ore a fine turno dei pacchi di Natale, è ancora scontro al magazzino di Piacenza. Ieri, in maniera abbastanza inusuale, non si è presentato, l'azienda non si è presentata all'incontro, già rimandato 2 volte in prefettura con i sindacati, e i sindacati hanno risposto proclamando uno sciopero immediato. Poi i sindacalisti hanno denunciato anche il tentativo dell'azienda di non farli entrare per le assemblee. Si cerca una mediazione, il tema vero è che a questo punto sono a rischio tutti i pacchi in un periodo fondamentale anche per Amazon, ma cercheremo di capire quale sia poi l'oggetto o l'eventuale punto di caduta di intesa, se c'è, in Amazon. E poi la riforma fiscale americana, visto che ieri in serata il Senato americano ha approvato la riforma voluta fortemente da Donald Trump, 51 voti a favore, 48 contrari, tutti i democratici uniti all'opposizione, manca solo la firma di Trump, ma la tempistica è incerta, non il fatto che firmerà il provvedimento. È la maggior riforma fiscale da quella voluta nel 1986 da Ronald Reagan, che andò poi sotto il nome che diede, fu l'asse portante della cosiddetta Reagan Economics. Taglia le tasse per 1.500 miliardi di dollari in 10 anni, quindi 150 miliardi all'anno, soprattutto per le tasse sulle imprese dal 35 al 21%, c'è una riduzione anche delle tasse individuali, l'aliquota scende dal 39 al 37%, ed è proprio questo aspetto che è più criticato, non tanto quello sulla riduzione delle tasse alle imprese, perché i democratici contestano il provvedimento dicendo che i benefici sono concentrati sulle classi più abbienti. Faccio notare che ci sono vari studi, tra cui quello del Washington Center for American Progress, che stimano che i benefici riguarderanno anche lo stesso presidente Trump, dovrebbe risparmiare grazie a questa riforma 15 milioni di dollari l'anno di tasse in meno, ma anche altri membri della cerchia presidenziale, il consigliere presidenziale Kushner, anche lui dovrebbe avere un risparmio intorno ai 12 milioni di dollari, il ministro al tesoro Steven Mnuchin e il segretario di Stato Tillerson circa 4 milioni e mezzo di dollari di risparmio come tasse in meno. Ma dicevo, la critica non è sulla riduzione delle tasse alle imprese, che deve servire a rendere anche un po' più competitive le imprese americane, e lo dico per inciso, a noi servirebbe in Italia tantissimo una riduzione del cuneo fiscale, più che della tassa in senso stretto, del cuneo fiscale tra quanto paga l'impresa e quanto ottiene poi il lavoratore in busta paga. La critica si concentra soprattutto sulla parte di quella che noi chiameremo IRPEF e l'aliquota alta ridotta di quasi 3 punti percentuali. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E come sempre il numero per i vostri SMS è questo, ma c'è anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Andiamo sulle notizie in breve, visto che ieri abbiamo commentato anche la celerità, oltre che le indagini e il rinvio a giudizio, mi riferisco a Leni, anche la celerità con cui è stato fatto partire il maxi giacimento di gas di cui Leni è capofila nel mare egiziano. Beh, oggi il numero uno dell'Eni, Claudio Descalzi, commentando i dati, ha detto insomma che l'Eni ha raggiunto la produzione equity record di tutti i tempi, pari a 1.920.000 barili di olio equivalente al giorno. Orgoglioso dei risultati, ha detto Descalzi, questi confermano la validità del modello operativo di Eni, e quindi la leadership nell'esplorazione, affiancata anche da una capacità di esecuzione dei progetti al top dell'industria petrolifera. Devo dire che i tempi record dello sviluppo del giacimento al largo dell'Egitto vanno in questa direzione. L'economia americana, il terzo trimestre va leggermente sotto le attese, rivista a ribasso infatti la crescita dal 3,3 al 3,2%, è comunque la crescita più veloce dall'inizio del 2015. Faccio notare che Moody's, ma ne parleremo più avanti, è molto scettica sul taglio delle tasse di Trump, perché dice che non è vero che questa riforma si autofinanzierà. Trump cosa sostiene? Sull'ipotesi un po' della curva di Laffer, se vogliamo citare la curva di Laffer, sostiene che il minor gettito dovuto alla riduzione delle tasse sulle imprese e anche sull'aliquota più alta verrà compensato da una crescita più forte dell'economia. Su questo siamo alle ipotesi, nel senso non c'è nessun dato chiaramente certo né evidenza di carattere internazionale. Moody's è molto scettica e dice il taglio delle tasse non si autofinanzierà, sarà il boom del debito e sale la pressione sui conti pubblici statunitensi. Definisce il taglio delle tasse come credit negative, con un impatto negativo sul tema del debito americano. Ancora invece, per quello che riguarda le notizie di carattere europeo, da un lato la Commissione europea ha dato via libera all'acquisizione di alcuni asset di Air Berlin da parte di Lufthansa, dall'altro, sempre in tema di compagnie aeree, domani è confermato lo sciopero dei piloti di Ryanair tutta la mattinata negli scali tedeschi. Quindi al termine di negoziati senza risultati, il sindacato ha invitato tutti i piloti di Ryanair con un contratto a tempo indeterminato a scioperare venerdì 22 dicembre. La vicenda delle audizioni bancarie. Oggi siamo ancora a strascichi di quanto capitato ieri e nei giorni scorsi. Il segretario del PD Matteo Renzi dice quella di Banca Etruria è una vicenda priva di conseguenze penali, è giusto fare chiarezza perché chi ha sbagliato sulle banche paghi davvero. Per quello che riguarda le dimissioni della Boschi, un politico si fa giudicare dai cittadini e quindi saranno le elezioni a giudicare se un politico debba tornare in Parlamento. È una discussione che non esiste. Così al TGCom 24. Un politico si fa giudicare dai cittadini, sì. Quindi saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non soltanto Maria Elena Boschi, debba essere riportato in Parlamento o no. Per cui per noi questa discussione è una discussione che non esiste. Allora, qualcuno ancora mi scrive vergognati, dopo giorni di ripetute opportunità. Abbiamo detto, tranne che ieri, perché ieri la vicenda era molto più chiara, riferita al libro di Ferruccio De Bortoli, in tutte le altre audizioni abbiamo detto semplicemente va bene lo scontro politico e valutare l'opportunità o meno che l'allora ministro Boschi si muovesse, tra l'altro solo su Banca Etruria, non abbiamo altre indicazioni, lei giustificandolo come parte del suo collegio elettorale, e la valutazione sull'opportunità politica e quindi le conseguenze politiche. Ci siamo solo limitati a dire che nel merito di quello che è successo alle quattro banche, più le due venete, più Carigenova, vogliamo metterci anche in Monte dei Paschi, anche se la vicenda è un po' diversa, nel merito il dibattito politico, l'opportunità o meno che la Boschi andasse a incontrare le persone che ha incontrato, non può far dimenticare che le banche, intanto che Etruria non se l'è comprata nessuno, ma che queste banche sono crollate per le gestioni dei manager, dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali, dei revisori che non hanno visto, di chi ha dovuto stimare i prezzi e gli addetti buoni, che la vigilanza non ha. Noi quando parliamo dell'evento abbiamo tirato in ballo anche la loro procuratore capo a prima Vicenza e poi a Treviso, le commistioni tra la Ragioneria dello Stato, ex dipendenti della Banca d'Italia. Che il fatto che la vigilanza non può autoassolversi e dire beh tutto è andato bene, però ammettendo che comunicavano male tra Consob e Banca Italia, questo è quello che ha portato a quel crack. Poi il giudizio politico sull'operato della Boschi, al di là del caso di ieri in cui insomma bisognava capire se Ferruccio De Bortoli avesse scritto una cosa completamente sballata oppure no, e mi sembra che Ghizzoni l'abbia confermata, abbiamo letto anche il testo al 100%, ma in tutte le altre audizioni il giudizio politico poi teniamolo separato da chi poi ha la responsabilità diretta di aver fatto fallire o non aver visto cosa stava capitando in una banca. Dopodiché Renzi, come chiunque, fa benissimo dire vabbè io la candido, decideranno i cittadini, non è indagata in nulla, la candidi, poi sarà la valutazione politica dentro il PD come dentro altri partiti se candidare la Boschi ti porti un vantaggio o ti porti uno svantaggio, come sembrano indicare i sondaggi di questi giorni. Grilli in audizione al invece in commissione bicamerale risponde a una domanda del presidente di Forza Italia Renato Brunetta in commissione appunto inchiesta sulle banche su una vicenda che può sembrare tecnica, ma in realtà riguarda un mancato pagamento dell'Italia a Morgan Stanley nel periodo di fine 2011 e inizio 2012 per la chiusura anticipata del contratto dei derivati e l'apertura di un contenzioso in tribunale. Secondo Grilli avrebbe avuto conseguenze devastanti, ponendo il nostro paese, che già viveva in una situazione con uno spread a 500 punti, in una condizione pre-default, pre-fallimento. Vi ricordo, quello era fine 2011, inizio 2012, spread dell'Italia quasi 600%. Tutti avevano il timore che l'Italia potesse fare default. Ora, aprire un contenzioso su un derivato e dire il tesoro italiano non paga, ti porto in tribunale, voleva dire automaticamente per l'Italia essere messa in pre-default o default, il che vuol dire che nel tentativo di posticipare un pagamento di 3 miliardi e 100 non sarebbe più stato in grado di ripagare il debito a un tasso di 500 miliardi all'anno. Quindi io ritengo, pur non essendo stato parte della decisione, che l'amministrazione abbia preso la decisione giusta in quel contesto. Allora, così appunto l'ex ministro Grilli. Guardate, potete continuare a scrivere, qualcuno mi dice ma è giusto che la Boschi si occupi di una banca del suo territorio, cosa avreste fatto? Altri contestano totalmente l'ingerenza, il conflitto di interessi, il fatto che non dovesse essere lei, avendo un padre vicepresidente e già nel consiglio di amministrazione e quant'altro. Ripeto, a questo punto, al di là della vicenda di ieri che riguardava un caso specifico come quello che aveva quello scritto da Ferruccio De Bortoli, tutto il resto rientra nelle valutazioni politiche sull'operato dell'allora governo Renzi e dell'allora ministro Boschi, okay? E mi sembra che gli elementi per trarre una valutazione ci siano tutti, o in un senso o nell'altro, ma l'unica cosa che chiedo è di ricordarsi la priorità nell'assegnare le responsabilità, dopodiché il giudizio politico lo dai comunque su. E mi sembra che tutte le proiezioni e i sondaggi vadano nella stessa direzione. Allora, invece, noi continuiamo con il nostro viaggio nell'Italia che vede, riprendendo il titolo del Censis, crescere l'economia, ma crescere anche il rancore, la rabbia e l'insoddisfazione. Sì, continua il nostro viaggio tra manager che guidano aziende o imprenditori che hanno fondato o stanno continuando a gestire le imprese fondate dai loro genitori o dalla loro famiglia, per capire che cosa, per capire intanto, avere qualche indicazione su come hanno fatto queste imprese ad agganciare la ripresa mondiale, quindi a uscire come numeri, proiezione fatturato dalla crisi e tornare ai livelli pre-crisi, ma dall'altro anche, e quindi un consiglio, quello che hanno notato, dall'altro anche per capire, sempre all'interno del rapporto Censis 2017, cresce la ripresa economica, c'è, ma cresce il rancore, perché secondo loro questo rancore è ben presente, lo vediamo anche noi nei messaggi ogni volta che parliamo di numeri positivi sull'economia, e quindi si va inesorabilmente a toccare la qualità, le caratteristiche di questa ripresa economica. Oggi è con noi Matteo Zoppas, nella doppia versione, da un lato di membro del consiglio di amministrazione del gruppo Acque Minerali Bevande San Benedetto, proprietà della famiglia, giro d'affari di 710 milioni di euro l'anno, 10 stabilimenti nel mondo, 6 in Italia, quasi 2.000 dipendenti, con 4 miliardi e 200 milioni di bottiglie di acqua San Benedetto prodotto ogni anno, ma dall'altro anche nella versione di presidente di Confindustria Veneto. Buonasera Zoppas. Buonasera Sebastiano. Allora, senta Presidente, da questo punto di vista, prima o poi arriviamo alla fotografia del Nord-Est e a quello che sta capitando, però parliamo del gruppo San Benedetto. Voi lavorate da un lato, come tutto il settore delle acque minerali, molto moltissimo con i consumi interni, che sappiamo essere ancora un elemento debole nella catena, un anello debole nella catena di questa ripresa economica. Dall'altro però, come tutti, avete dovuto modificare non solo il processo ma anche i prodotti e riposizionarvi all'estero in questi anni, perché gli unici segni positivi da là arrivavano. Come vi siete mossi e che cosa ha voluto dire? Allora, innanzitutto vorrei fare un passo indietro. La vera forza della San Benedetto è una forte integrazione tra quello che è la parte, diciamo, commerciale e la parte tecnologica, che dà la possibilità, che è il nostro vero segreto, dà la possibilità di creare una forte innovazione anno su anno. Solo quest'anno abbiamo messo sul mercato quasi 20 prodotti nuovi, questo si ripete da molto tempo, con un costo molto basso, quindi abbiamo una capacità di innovazione che è molto importante. Quello che ci dà la possibilità poi di essere in un certo senso leader come lo siamo da più anni nel settore del beverage, è il giusto rapporto tra qualità e prezzo e naturalmente quindi qualità, prezzo, servizio e innovazione. L'estero è una cosa alla quale ci stiamo affacciando ora, perché naturalmente è la più grossa valvola di sfogo, o meglio lo sbocco migliore che possiamo avere, perché il mercato italiano, come sappiamo, dà la possibilità di crescere come stiamo facendo di qualche punto all'anno. Quest'anno abbiamo fatto un più 7% in un mercato che tira circa del 3-6% nelle analcoliche, va meglio l'acqua, un po' meno bene vanno le bibite, ma come gruppo stiamo crescendo al 15,4% considerato anche l'estero. Naturalmente il nostro brand all'estero è un marchio che stiamo costruendo con una strategia che nei prossimi anni vedrà sicuramente dei buoni risultati. Ecco, visto che, come lei ci ricordava, adesso vi state strutturando e consolidando la presenza all'estero, ma ancora avete il grosso che si fa in Italia. Lei ha notato un qualche miglioramento nei consumi interni, oppure, come altri suoi colleghi, ci dice sì, poca roba ma nulla ancora di sufficiente a parlare di un'inversione di tendenza rispetto alla crisi? Allora, dobbiamo ricordarci da dove partiamo. È chiaro che normalmente il food, se parliamo di food in particolare, il food richiede una prossimità di produzione rispetto al consumo, quindi è abbastanza allineata, tranne quelle categorie importate, ma è abbastanza allineato la produzione e il consumo. Non ci sono delle crescite a double digit sicuramente. Ricordiamoci che da dove partiamo? Partiamo da un 2008, inizio crisi, dove abbiamo avuto una riduzione, una contrazione del mercato importante, meno forse nell'alimentare, meno forse nel beverage rispetto ad altri prodotti. È un mercato abbastanza, diciamo, costante. La preoccupazione, o meglio le criticità, ci sono negli altri mercati dove dal 2008, seppur si segni un 20% di aggregato, ricordiamoci come contrazione del mercato, ricordiamoci che c'è stata una forte sostituzione, cioè hanno acquistato meno, ma chi vendeva non erano più tanto gli italiani. I player che hanno preso il nostro posto sono sicuramente i cinesi, piuttosto che altri produttori a basso, diciamo, a basso costo, a basso prezzo. Questo fa sì che la contrazione vera di mercato fosse molto più alta, intorno al 30-40% sicuramente, a seconda dei settori, e ad oggi noi non abbiamo ripreso quel momento di inizio crisi. E ricordiamoci anche, non so se, per rispondere all'altra domanda, ricordiamoci anche che in questo momento il Censis ci dice sì, un valore positivo, ma cresce sicuramente malumore, perché un aggregato non è una fotografia completa. E qua infatti volevo arrivare, cioè al quello che è il filo rosso di questi interventi. Il titolo del Censis: la ripresa c'è ma cresce il rancore, che sembra così una contraddizione. In realtà quello che abbiamo analizzato in queste settimane è sostanzialmente questo. Lì volevo sentire l'opinione più del presidente di Confindustria Veneto che del consigliere d'amministrazione delle acque minerali e bevande San Benedetto. E cioè sì, la ripresa è in atto, i dati aggregati sono inequivocabili, dovuta soprattutto all'export, 200.000 mal contate imprese che sono completamente ormai ben posizionate sull'estero, ci sono 2-3 milioni di imprese che invece questo salto non l'hanno ancora fatto, ma al di là delle imprese il problema è che appunto è una ripresa economica in cui la media è veramente una media dei polli di Trilussa, cioè la famosa battuta di Trilussa, un uomo mangia due polli, uno è a digiuno, la media dice che ogni uomo ha mangiato un pollo.

Ho acquistato il domani invece di aspettarlo. Cogliete minuti, ore, intere giornate e non un singolo attimo. Nuova Audi A8 è qui. Un'auto dal design elegante e dalle avanzate tecnologie di guida assistita per garantirvi il massimo della sicurezza, del comfort e della performance e per ridefinire ogni standard, anche quello del tempo, la vostra risorsa più preziosa. Forget the car. Audi is more. Scoprite nuova Audi A8 e Audi Intelligent Assistance su audiinnovative.it. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Vorrei concludere l'intervista con Matteo Zoppas, in questo caso non per il suo ruolo nel consiglio di amministrazione della San Benedetto, perché che è proprietà della famiglia, ma nel suo ruolo di presidente di Confindustria Veneto. Quindi condivide l'analisi di prima, cioè che cresce l'economia, sta crescendo, non ancora a sufficienza, ma sta crescendo, ma cresce anche il rancore, perché se dico che c'è la ripresa e tu non la vedi o ne vedi pochissimo, ti arrabbi ancora di più. Mentre quando c'era la crisi e noi dicevamo guardate che l'economia peggiora, paradossalmente ricevevamo meno messaggi di accuse, di critiche rispetto ad adesso, che diciamo guarda che i numeri sono in miglioramento anche rispetto alle attese. Ma non possiamo dare un numero unico che rappresenti tutta la situazione che stiamo vivendo. È vero che abbiamo una disoccupazione che è al 5,9% in Veneto, che è il dato più basso in Veneto, che è il dato più basso al 2012, quasi la metà rispetto all'Italia, che è circa intorno a 10,6. È vero che c'è la ruota che sta correndo molto di più e quindi più camion, più volumi, ma è il risultato di chi produce di meno e chi produce di più. È una media un po' abbagliante, perché un dato interessante, Fondazione Nord-Est ci dice che il 25% delle imprese sta andando bene, con una crescita che va oltre il 15%. Un altro dato che però è più preoccupante è che il 30% delle imprese invece sta andando indietro, quindi sta perdendo. È vero che non siamo sul double digit, siamo a poche unità percentuali, ma ritorniamo al discorso di prima. Da dove siamo partiti rispetto al 2008? Oggi non abbiamo ancora recuperato quello che c'era, e se parliamo di fatturato dimentichiamo i margini. Oggi ci sono dei margini che non sono stati recuperati. Lo dico perché, ascolta, i margini sono gli utili poi alla fine, cioè sì. Un conto è aumentare il fatturato del 10%, altra cosa è aumentare gli utili del 10%, perché spesso questi fatturati in aumento sono stati fatti comprimendo anche i margini, quindi i guadagni. Ecco, grazie. E naturalmente io mi trovo ad avere sul territorio delle aziende, le chiamo associati, degli associati che hanno saputo intraprendere la giusta via, rinnovare, hanno potuto innovare, perché erano magari in un ciclo finanziario positivo con disponibilità e quindi hanno potuto rinnovare il proprio prodotto, stare al passo con i tempi, l'hanno fatto nel momento giusto, di nuovo ripeto, non per forza, per capacità, ma anche per disponibilità di varie situazioni che possono dare questa agevolazione, e altri che invece non hanno potuto investire, non hanno potuto rinnovare, non hanno potuto dare quel mix di vantaggio che li ha fatti ritrovare indietro. Ed oggi, se io dovessi andare da loro a dire c'è ripresa, mi dicono attenzione, cioè, non siamo per niente d'accordo. Per cui è sicuramente che quello che scrivono modestamente anche noi molti ascoltatori ogni volta che diciamo. Il che non vuol dire che i numeri dell'Istat, come scrive qualche genio, siano falsi, siano filogovernativi, sono certificati a livello europeo. No, vuol dire esattamente che quando tu inizi a raccontare, beh, guardate che le cose stanno migliorando, come dato complessivo, chi non vede nulla, scusate se mi ripeto, si incavola e quindi crescerà ancora di più. Paradossalmente, lo dico anche a lei, noi avevamo molti meno messaggi di critica quando raccontavamo nel 2010-2011 che le cose andavano, e poi anche 2012-2013, malissimo. Tutti erano d'accordo. I problemi si creano quando tu inizi a dire, beh, guardate che i dati, l'export non va male, il PIL cresce più del previsto, l'occupazione, per quanto si sia fermato l'aumento dei tempi determinati, è anche un po' calato, ma c'è stato un salto. Questo fa incavolare tantissimo. Che cosa serve adesso però, lo chiedo sempre al presidente di Confindustria Veneto, perché alcuni hanno citato, tra cui il Censis, l'assenza o la debolezza ancora degli investimenti pubblici, cioè gli investimenti privati sono ripartiti, sui pubblici siamo ancora a un meno 30% rispetto al pre-crisi. Lo dico a chi rappresenta un'area che, insomma, se prendiamo Veneto, Trentino e Friuli, siamo al 13% del PIL italiano, con l'11% della popolazione e il 20% di tutte le esportazioni italiane, cioè una su cinque, per pari a 80 miliardi su 400, partono dal nord-est. Dico, gli investimenti pubblici, sappiamo che la TAV la state ancora aspettando, la TAV intesa come l'alta velocità da Milano a Venezia, alta capacità su Trieste, oppure che cosa, Zoppas? Allora, è chiaro che per sapere che cosa ci vuole, se dovessimo fare un discorso imprenditoriale, basta che ci paragoniamo con quelli che sono i mix dei fattori produttivi che ha un nostro concorrente a 100-150 chilometri da noi. Sono sempre le stesse cose che vediamo: la pressione fiscale, piuttosto che i costi della burocrazia, piuttosto che tutto quello che si legge ogni giorno quando si aprono i giornali. È chiaro che oggi noi non vediamo ancora delle manovre strutturali di lungo termine che si sostengono, che danno, come posso dire, che cambiano il DNA di questi fattori. Devo dire che ciò che abbiamo sperimentato con favore, con successo, è una conseguenza a una ottima manovra, quella del 4.0, che di fatto è andata ad agire su elementi reali, che quindi ha dato effettivamente, ha variato l'equilibrio tra costi e ricavi con un sistema incentivante che ha funzionato. Quello di cui abbiamo bisogno sono due cose: nel medio breve termine altre 4.0 che vadano a rimettere in moto l'economia, ma che non siano dei one-off, dei sussidi, ma a tempo determinato. Noi abbiamo bisogno di manovre strutturali che vanno a cambiare la relazione tra i costi e i fattori produttivi, così che noi possiamo competere maggiormente sia all'interno del nostro mercato, perché ricordiamoci che non è che perché noi produciamo all'interno del nostro mercato non abbiamo competitor che vengono da luoghi che hanno invece delle agevolazioni particolari rispetto alle nostre. Dobbiamo fare un plauso ai nostri imprenditori italiani, perché nonostante si abbiano queste differenze, senza puntare il dito su nessuno, ma sono cose che arrivano dal passato, quindi cose di lungo termine, hanno la capacità di creare quel made in Italy, quelle innovatività, quel più che è riconosciuto da tutti, soprattutto all'estero, che ci dà quell'extra prezzo che ci copre queste extra costi. Per cui che vadano bene le manovre strutturali, che siano, diciamo, di lungo termine, ma che cambino il DNA dei nostri fattori di costi, dei fattori produttivi, e ci consentano di essere veloci, snelli e reattivi sul mercato. Diciamo che il vantaggio del 4.0, lo dico a chi scrive, è che invece che essere un incentivo così, mette in atto un processo virtuoso, perché tu compri il macchinario, o meglio, scusatemi, digitalizzi l'impresa, compri software, compri macchinario, compri quello che vuoi. A quel punto lo Stato ti consente di avere l'iper o il superammortamento, quindi 140 o 250%, ma tu l'hai già comprato il macchinario, voglio dire, non è un per cui tu hai dovuto fare un ragionamento. Nessun imprenditore si metterebbe a spendere dei soldi solo per poterne detrarre una parte dal fatturato, dai, perché stiamo parlando di investimenti delle volte importanti, e ha fatto ripartire tutta l'industria, diciamo, legata a questo anche nel nostro paese. Grazie a Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, nonché appunto membro del consiglio di amministrazione del gruppo Acque Minerali e Bevande San Benedetto. Grazie a lei. Andiamo sul traffico. Troppi inglesismi, Zoppas, ho capito. Sapete che io li correggo, cerco di correggere, ho detto questo. Diciamo, fossero gli inglesismi il problema della nostra economia, saremmo a cavallo, un po' come nel 99-2000. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Guardi che solo il Veneto e Lombardia vanno bene, il resto vale zero. No, va bene anche l'Emilia Romagna, va bene anche il Piemonte, c'è un po' di risveglio nella dorsale adriatica, ma anche all'interno di queste regioni purtroppo è a macchia di leopardo la ripresa, quindi alcuni vanno particolarmente bene, altri sono fermi. Comunque mi sembra il tema per oggi abbastanza sviscerato. Andiamo sul traffico, poi parleremo anche della gaffe totale che ha fatto il Ministero del Lavoro con quell'annuncio di, per una donna di bella presenza, rimosso dal ministro Poletti poco fa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Siamo proprio con la progressive qua. Va bene, cambiano le basi sotto Natale. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Più 0,60% Milano come Parigi, Francoforte più 0,30%, Londra più 1%, Dow Jones più 0,45%. Allora, sale la borsa, sto scherzando con la regista che è evidentemente innamorata della progressive, ma Saipem più 2,5%, Banco BPM più 2%, Tenaris più 1,5% come Intesa San Paolo, Buzzi Unicem più 1,5%, Moncler più 1,20%, Ferragamo più 1%, Finecobank più 1%, sale. Italgas invece scende meno 1,50%, Generali meno 1,50%, Campari mezzo punto percentuale di calo, ricordati meno 0,36%. Ceo Condina, Radio Core, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, non mi sembra una seduta imperdibile quella di oggi, settore bancario anche abbastanza tranquillo, direi Saipem, forse Italgas dall'altro lato. Era una seduta assolutamente da sbadigli fino all'apertura di Wall Street, gli indici sono stati praticamente piatti tutto il giorno, poi Wall Street come al solito ha dato la carica, dove c'è, insomma, Wall Street c'è sempre questa grande attesa per la firma, la riforma fiscale di Trump, e appunto manca proprio soltanto la firma del presidente americano, e quindi Milano come le altre borse europee hanno accelerato per chiudere comunque sui massimi di giornata, Londra addirittura ha chiuso sui massimi storici oggi. Per quanto riguarda Saipem, rifletto un po' l'effervescenza del comparto energetico in tutta Europa, guadagna il 2,5%, si scommette su possibili aggregazioni proprio a livello europeo tra operatori del settore, un po' anche per fare efficienze e compensare un calo del petrolio che ormai viene considerato strutturale dagli operatori, il calo del prezzo ovviamente. Allora, questo per quello che riguarda l'andamento generale della seduta, dicevo appunto anche Banca Generale 1,5% di calo, Mediaset invece si è aggiudicato i diritti per i mondiali del calcio 2018 e questo aiuta il titolo più 1%. Migliori e peggiori, sale, dunque, Poligrafici Printing più 21%, Trevi più 16%, e poi titoli veramente sottili, Agatos più 5%, fronte opposto Credito Valtellinese oggi ricala invece meno 5%, Net Insurance meno 4,80%, 4,60% lo perde Falck Renewables e anche KR Energy. Oh, allora, tanto dobbiamo andare avanti con la Progressive. Sembra di essere a plastic. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito Radio 24. Grazie a Ceo Condina. A me abbiamo svegliato anche te, vista la giornata, Ceo, visto la giornata di borsa. Ce n'era bisogno. Ecco, sì, benissimo. E adesso GR24, poi la gaffe con un rimedio del Ministero, la vicenda dello stabilimento Amazon, del magazzino Amazon, in provincia di Piacenza, e la riforma fiscale di Trump. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi, amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle.

Lombardia.it. Nel cuore della Lombardia c'è un territorio in cui vivono insieme tradizione e innovazione, origini antichissime e le migliori tecnologie. La Franciacorta, da cui ha origine il suo vino. Franciacorta festeggia i suoi primi 50 anni dal riconoscimento della DOC. 50 anni di storia e passione che hanno dato vita a un prodotto unico ed eccezionale. Franciacorta, un vino, una terra, un'eccellenza italiana. Vai su franciacorta.net e scopri Franciacorta, una storia di passione. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Diciotto e otto minuti in diretta dal Plastic. No, sto scherzando, ma dov'è finito Coccoluto che doveva rifarci le basi gratis? Vabbè, allora c'è un sito importantissimo che si chiama Garanzia Giovani, dove vengono pubblicate le offerte di lavoro delle aziende che aderiscono appunto a Garanzia Giovani derivanti dalla partnership stipulate da soggetti, tra soggetti pubblici e privati. Riguarda l'attivazione dei tirocini, l'offerta di contratti di apprendistato, corso di formazione. Si leggeva ieri una funzione impiegato amministrativo, cercasi impiegata di bella presenza per tirocinio Garanzia Giovani presso agenzia mandataria SIAE di Stradella, durata 6 mesi più proroghe, part time 20 ore settimanali, retribuzione 400 euro mensili. La tirocinante si occuperà di mansioni di front office, allo sportello, a contatto con il pubblico e poi la descrizione del lavoro. Allora, è venuto fuori un putiferio. Poco fa il ministro Poletti ha disposto la rimozione dell'annuncio sessista e ha chiesto anche un'indagine per verificare le modalità di controllo con cui vengono pubblicati gli annunci. A scatenare, diciamo, rifar circolare, non ritwittare in questo caso, questo annuncio è stato tra gli altri il professor Michele Tiraboschi, che insegna diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia, ex collaboratore storico di Marco Biagi, nonché direttore scientifico del Centro Studi ADAPT. Buonasera Tiraboschi. Buonasera. Allora, la cosa può sembrare così un po' quasi faceta, vabbè, hanno fatto una gaffa, uno scivolone, tutti si sono concentrati sulla bella presenza. Mi faccia fare l'avvocato del diavolo, che cos'è che non va in questo annuncio? Perché se uno deve fare, questo vale nel privato molte volte, tu cerchi anche un certo tipo di presenza fisica se devi fare il front office, ho ben capito, allo sportello. Perché secondo me qui, oltre alla gaffe sulla bella presenza, c'è qualcosa di un pochino più serio e più grave in questo annuncio, professore. Sì, è vero, tutti si sono un po' soffermati su questo aspetto della bella presenza dell'annuncio sessista. In realtà è da 3 anni che stiamo monitorando col Centro Studi ADAPT gli annunci, i tantissimi annunci sul portale pubblico di Garanzia Giovani, Ministero e Regioni, e annunci di questo tipo sono la regola. La cosa che più viene all'occhio è che si parla di lavoro, di retribuzione, di part-time, di ore, 400 euro, ma dietro c'è un tirocinio ed è pagato dallo Stato. Questa è la cosa grave. La regola è che ci sono tantissimi annunci di tirocini che mascherano rapporti lavoro, dove l'azienda non paga o paga la metà perché paga lo Stato. Poi talvolta capita che ci siano anche annunci sessisti che fanno riferimento al genere o alla bella presenza. Quindi sì, io devo dire una cosa adesso. A me, se posso dirla tutta, il fatto che per un'attività, diciamo, di rapporto con il pubblico si cerchi una persona di bella presenza sconvolge fino a un certo punto. Mi preoccupa molto di più quello che lei diceva, cioè si dice tirocinio, però sono 6 mesi più proroghe, part time 20 ore settimanali, retribuzione 400 euro mensili. Mi preoccupa molto di più quello che lei stava dicendo, cioè il mascherare come tirocinio quello che invece deve essere un altro tipo di contratto. Beh, sono gravi tutte le cose, perché la legge vieta da tempo annunci che facciano riferimento al genere e che facciano riferimento anche alla bella presenza. C'è possibilità di lavorare a contatto con pubblico per tutti, quindi c'è sicuramente un problema di sensibilità e di come noi intendiamo il lavoro. La legge dice che si può fare riferimento alla bella presenza per la modella, per la sfilata, per l'attrice, ma non certo per un lavoro come gli altri. Qui la bella presenza, esteticamente bella, non era rilevante, altrimenti nascondiamo sotto il tappeto chi ha una disabilità, chi non, certo, è particolarmente bello, come dice Lucio Dalla, diamo uno specchio ai brutti, che così capiscono che è meglio che stiano nascosti. Questo è grave, però ancora più grave che il portale pubblico del Ministero da 3 anni non controlli quello che viene pubblicato, e quindi un programma che si chiama Garanzia, che spesso invece asseconda delle prassi che sono poi una concorrenza reale fra le imprese. Ci sono molte imprese che non rispettano le regole e quindi invece che assumere dei giovani offrono dei tirocini a pochi euro pagati dallo Stato. E questo obiettivamente è inaccettabile anche nei confronti delle altre imprese che si comportano invece, esatto, correttamente. Guardate che il problema non è solo nei confronti dello Stato, è anche nei confronti della concorrenza, che deve essere reale e corretta, nei confronti delle imprese che seguono invece tutto l'iter strutturato. Senta, visto che l'ho in collegamento, Tiraboschi, vorrei anche un commento sui dati di oggi dell'INPS, insomma, che secondo me vanno a certificare quello che già abbiamo commentato su un periodo più lungo, dal 2014 al 2017, l'aumento dei posti di lavoro che c'è stato, ma negli ultimi mesi soprattutto la frenata sui tempi indeterminati e anche l'ultimo dato di ottobre, una riduzione, l'aumento dei tempi determinati. Il suo collega Garibaldi qualche giorno fa, nel commentare questi dati, diceva: beh, c'è un po' di delusione perché in effetti la riforma del mercato del lavoro, che va sotto il nome di Jobs Act, avendo reso le tutele crescenti e quindi più flessibile l'ingresso, dovrebbe aver levato, cioè ci aspettavamo che levasse tutta questa differenza tra tempi determinati e tempi determinati, cioè rendesse più facile il tempo indeterminato. È d'accordo anche lei in questa delusione? È chiaro che il grosso è stato fatto dagli incentivi, 8.000 euro nel 2015 e 4.000 euro fino a 4.000 euro nel 2016, però c'è un ragionamento anche più di medio termine. Nel momento in cui hai un contratto che è meno rigido, come era il vecchio tempo indeterminato, ti chiedi perché ci sia ancora questo ricorso al determinato. No, nessuna delusione. La delusione c'è stata 3 anni fa, quando il governo, col Jobs Act, ha scelto di guardare al Novecento industriale, quindi ha scelto di sostenere la forma comune del lavoro della fabbrica fordista, il lavoro a tempo indeterminato. Il lavoro oggi è un lavoro a fasi, a cicli, a programmi, a progetti. Quello che manca, e il portale Garanzia Giovani lo dimostra, sono le politiche attive, le politiche di formazione, riqualificazione, che poi sono la produttività, la qualità del lavoro. Quindi credo che sia una conferma che quella legge aveva una visione sbagliata, una visione che guardava al passato e non al futuro del lavoro, che è un lavoro più per progetto, a risultato, e come tale va remunerato. Grazie, grazie anche a Michele Tiraboschi, che insegna appunto diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia, ed è stato uno degli artefici appunto sulla rete della polemica che... però, come avete capito, lo dico a chi scrive, non si tratta solo di un annuncio di cattivo gusto, oltre che proibito dalla legge, sulla bella donna di bella presenza, poi manca solo che tu metta le misure. E infatti la battuta che tutti hanno fatto è hashtag bell'uomo, quel mitico, per fortuna sospeso e verrà licenziato, mi auguro, il consigliere di Stato, che diciamo metteva i criteri della bellezza tra i criteri per seguire il corso per la magistratura. Ma oltre a questo c'è di più, e c'è il fatto che non vi è un controllo in quello che è un portale pubblico, e alcune imprese se ne approfittano in maniera scorretta per scaricare sul pubblico quelli che sarebbero costi invece non di tirocinio ma di contratto vero e proprio. A proposito di mercato del lavoro, andiamo a Piacenza, dove dopo lo sciopero del 24 novembre, il Black Friday, e quello più ridotto 2 ore a fine turno dei pacchi di Natale, è scoppiato finimondo ieri mattina in prefettura. L'azienda Amazon non si è presentata, i sindacati CGIL, CISL, UIL e UGL hanno risposto proclamando uno sciopero immediato. Tensione anche perché i sindacati hanno denunciato il tentativo dell'azienda di non farli entrare nelle assemblee. troppa pressione hanno fatto sapere al prefetto e dirigenti di Amazon. Dopo il traffico cerchiamo di capire se si riuscirà ad avere un accordo, anche perché il danno, in primo luogo ci sono i lavoratori che protestano per gli orari e le tipologie di contratto, ma è chiaro che questo avviene nel momento, uno dei momenti più importanti per un gruppo come Amazon, quando appunto a Natale si tendono a consegnare i pacchi di qualunque tipo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti. Allora, Andrea Biondi, si arriverà a un accordo o Amazon rischia in questo periodo delicatissimo di consegne di trovarsi bloccata in quello che è il magazzino più importante a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza? Buonasera Sebastiano, ma dal mio personalissimo punto di vista io penso che l'accordo sia difficilmente raggiungibile tra le parti, perché è una concezione differente, cioè di questa situazione noi ne parlammo già in tempi non sospetti, era in primavera verso marzo, perché i sindacati avevano incominciato a stilare una piattaforma di contratto integrativo da sottoporre all'azienda, alla quale azienda ha fatto capire subito che non ne avrebbe voluto sapere, per considerando insomma il suo ruolo come un ruolo centrale e diretto con i lavoratori. Questo si capisce che è una concezione del mercato del lavoro e dei rapporti sindacali che è propria di molte multinazionali, di Amazon sicuramente, e che è contraria a quello che pensano i sindacati. In tutto questo ragionamento poi si innesta quelle che sono le condizioni di lavoro in Amazon. Allora, è un tema molto controverso, perché si sentono versioni secondo le quali sarebbero delle condizioni di lavoro veramente molto dure, con ritmi elevatissimi, quasi insostenibili. Dall'altra parte c'è anche chi lavora all'interno di Amazon, e io ho avuto modo di parlare anche con queste persone, che riconoscono il fatto che sia un lavoro duro, ma duro come all'interno di tutto il comparto della logistica. Terzo elemento che non deve sfuggire è il fatto che accanto a un tot di dipendenti, sono 1600 fissi, sì, ce ne sono circa 2000 che nel periodo di picco sono lavoratori somministrati e che, cioè, quindi lavoro a chiamata, diciamo. Esattamente, e che quindi contribuiscono a diciamo a evadere tutto il lavoro del picco di Natale. Quindi poi alla fine non sono le due ore a far temere Amazon, che di certo però ha sia un contraccolpo dal punto di vista produttivo e organizzativo in un periodo come questo, ma anche dell'immagine. Mm. Ma considerato che il fatto che sia stato il prefetto di Piacenza a chiamare sia i sindacati sia l'azienda, denota in qualche modo un'escalation della cosa, sì, che è arrivata a questo punto. Bisognerà vedere come evolverà. Chissà il governo se e come si muoverà. Sì, oddio, il governo in scadenza, come mi scrive qualcuno, però resterà operativo fino al nuovo governo. In realtà qualcuno mi scrive: Barisone, questo governo è finito, poi su quale carro salirai? Beh, salirò sul suo. Detto questo, faccio notare che il problema Amazon ce l'ha non solo in Italia, perché contestazioni e proteste contro le cosiddette brutali condizioni sono emerse anche in paesi come Germania, Regno Unito e negli stessi Stati Uniti. Amazon ha a livello mondiale quasi 542.000 impiegati, giro d'affari di 136 miliardi di euro l'anno, ma utili relativamente modesti rispetto al fatturato: 2,3 miliardi l'anno scorso, 500 milioni nel 2015. Hai fatto bene a far notare che ci sono appunto non solo i 1600 dipendenti, ma anche i 2000 che vengono messi a contratto di somministrazione per evadere tutti i pacchi in questo periodo. Il lavoro è organizzato in tre turni che coprono in grosso modo la consegna di mattina, nel pomeriggio, d'ora notturna, cioè dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22, dalle 22 alle 6 di mattina, attivo 7 giorni su 7. Ci siamo occupati di Amazon anche per la vicenda del fisco, accordo quest'anno, l'ha firmato 2-3 giorni fa, per versare 100 milioni di euro al fisco italiano. Grazie Andrea Biondi del Sole 24 Ore. Passiamo sempre con i colleghi del Sole, ma questa volta da New York, alla riforma fiscale di Obama. Datemi pure la stessa base. Allora, riforma che va a portare le tasse sulle imprese dal 35 al 21%, anche le tasse individuali scendono dal 39,6 al 37%. Questa è la parte più criticata, dicevamo, perché i democratici che hanno votato in blocco no alla riforma fiscale di Trump dicono andrà ad avvantaggiare le classi più abbienti, cioè riduci l'aliquota massima e avvantaggi i più ricchi. Hanno fatto un calcolo, lo ha fatto il think tank del Washington Center for American Progress. Con questa riforma Donald Trump risparmierà personalmente 15 milioni di dollari l'anno, il suo consigliere presidenziale Jared Kushner ne risparmierà fino a 12 milioni e poi il suo segretario di Stato Tillerson e anche il suo ministro del tesoro Steven Mnuchin ne risparmieranno a testa 4 milioni e mezzo di dollari. Però l'altra critica arriva da Moody's, che dice attenzione, questo taglio di tasse non si autofinanzierà, perché tutto si regge sul fatto che è vero che avrà meno introiti fiscali, avranno meno introiti fiscali gli Stati Uniti, ma Trump dice in questo modo l'economia crescerà fino al 7% e quindi recupereremo quello che non ci entra come tassazione da una crescita maggiore del PIL. È un po' l'ipotesi della curva di Laffer, cioè tasso meno così tutti pagano, l'economia ottengo più da entrate fiscali, poi l'economia riparte, libero risorse e questo mi entra dalla finestra, le minori entrate fiscali mi tornano dalla finestra come maggiore crescita economica. Marco Valsani, adesso alle 24 ore da New York, buonasera. Buonasera a voi. È un po' azzardato sto 7% di Trump, visto che oggi il dato confermato è il 3,2% nella crescita del PIL. È un azzardo tutta l'operazione? Ma sicuramente una scommessa, dal punto di vista di Trump e dei repubblicani sperano, si augurano che sia una scommessa vincente, e cioè che l'impopolarità attuale della riforma, che è indubbia perché i sondaggi lo dicono, si trasformi poi in un maggior sostegno, ma così la sua efficacia si dimostri sul campo, ma che questo può essere dimostrare alla fine a conti fatti è una riedizione, comunque la si voglia girare, della trickle down economics, quindi di una teoria per cui se effettui dei significativi sgravi in cima ai redditi più elevati, alle grandi imprese eccetera, alla fine diciamo l'effetto è a cascata e quindi si avvantaggia tutta l'economia. Diciamo che è una teoria che nell'arco della storia diciamo si è dimostrata ripetutamente falsa. E quindi diciamo rimane tutto da dimostrare che questa volta sia la volta buona in cui invece il PIL acceleri davvero almeno oltre il 3%, ma in modo costante, non diciamo un trimestre per poi rallentare, allora, sì. E che si creino posti di lavoro davvero significativi e non diciamo così semplicemente così investimenti finanziari. Allora, per essere ancora più precisi, la curva di Laffer disegnata su un tovagliolo, Laffer, questo economista che la disegnò, ti dice oltre un certo livello di tasse è controproducente perché tu smetti di produrre perché vai a pagare troppe tasse e si ferma l'economia. Io riduco le tasse, questo libera risorse ed energie e fa crescere l'economia ancora di più, quindi quello che non ti entra come tasse ti entra perché l'economia cresce più del previsto. Ed è diciamo così il mantra di tutti i liberisti, e chi mi precede, Oscar Giannino, penso che abbia il poster di Laffer o il tovagliolo di Laffer in casa. La critica, o chi la critica, dice attenzione, A, non si è mai verificata nell'automatismo che voi volete raccontare, B, ridurre le tasse, in questo caso si parla però non tanto delle imprese quanto delle tasse alle persone, le tasse individuali, nella parte più ricca Beh, uno non mangia, usando l'esempio di Trilussa, due polli, mangia sempre un pollo, anche se gli abbassi le tasse, quindi hai una ripartenza dei consumi più bassa rispetto che se non tu le alleggerissi queste tasse a chi è in difficoltà nell'arrivare a fine mese, e quindi aumentasi i consumi. Ridurre le tasse alla parte più ricca non ti fa crescere i consumi interni, ti fa crescere consumi di altro genere, insomma rileggetevi Veblen, teoria della classe agiata, e quindi consumi distintivi, il lusso, gli investimenti speculativi, ma non porta lo stesso effetto che porta liberare un po' di risorse e ridurre le tasse a chi è già in difficoltà mese su mese e che invece potrebbe aumentare sensibilmente i consumi, mangiarsi un pollo al giorno e non che magari, cosa che magari non fa, per usare l'esempio di Trilussa. Valsani, nel chiudere in una battuta, quando si avrà una verifica di questo approccio di Trump? Aspetteremo un anno i prossimi dati sull'economia? Probabilmente sì, ci vorranno dei mesi, ci vorrà un anno per capire se davvero questa sarà una riforma che avrà un impatto positivo comunque sull'economia, o se, come dicevi tu, si tradurrà in una ridistribuzione alla fine della ricchezza, di nuovo semplicemente in massima parte a favore diciamo degli strati più abbienti, in realtà aggravando anche tensioni sociali e squilibri diciamo all'interno, certo, all'interno del sistema economico. Allora, grazie anche Marco Valsani. Attenzione, questo riguarda le tasse sui privati, cioè l'aliquota, la nostra IRPEF, non le tasse sulle imprese, laddove c'è tutto un altro ragionamento, perché le rende in parte anche più competitive, e questa è un'esigenza per le imprese americane. Grazie quindi a Marco Valsani. E noi ci sentiamo domani, venerdì, per la classifica, non solo, anche per l'astrologa e per Giovanni Tamburi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.